Salve a tutti e benvenuti sul Piacere di Scrivere. Ritornano i podcast che potrete seguire su Spreaker, su iTunes e su Internet Archive, cercando sempre il Piacere di Scrivere. Per quanto riguarda Spreaker, avremo una sezione che si chiama Consigli a voce, dove potrete trovare i podcast delle sezioni How to e Copywriting in Progress. Parliamo di un fenomeno che sta diventando sempre più importante e di cui abbiamo già parlato un po' di tempo fa, ovvero gli audiolibri. In passato in Italia si pensava che l'audiolibro fosse una maniera promozionale per vendere dei testi che ormai erano già famosi di autori di grandi case editrici, quindi per esempio Dan Brown, Camilleri, Ken Follett, chi ne ha più ne metta, e che servissero sostanzialmente a vendere quei testi che in tutte le edizioni cartacee, ebook eccetera erano già state vendute. Invece oggi più che mai l'audiolibro diventa anche un modo di promozione per l'autore esordiente. Il primo consiglio che mi viene in mente è quello di rivolgersi a un professionista, semplicemente perché il professionista ha i programmi specifici, ha investito tempo e risorse per ottenere le competenze giuste e naturalmente può dare una resa ottima del testo. Ci sono dei casi in cui però per l'autore esordiente potrebbe essere interessante la scelta di raccontare il proprio audiolibro. Ma quando conviene e da dove cominciare? Per iniziare si deve pensare a quanti audiolibri si ascoltano. Quanti audiolibri ascolti in un mese? Perché se è vero che per scrivere un buon libro si devono leggere molti libri, è anche vero che per raccontare la propria storia e quindi creare un ottimo audiolibro è necessario ascoltare tanti audiolibri. In più, l'audiolibro ha una caratteristica da non sottovalutare, cioè il fatto che può essere ascoltato in qualsiasi momento. Se invece l'idea di lettore che hai in mente è quella di Cicerone che apriva il rotolo e si immergeva nella lettura, allora non conviene cimentarsi nell'impresa dell'audiolibro. In più bisogna tenere a mente che la voce racconta molto più dello scritto. Ti è mai capitato di ricevere da un amico un messaggio vocale su WhatsApp? Beh, dalla voce puoi capire tante cose, puoi capire se è arrabbiato, se è triste. Quando si fa un podcast oppure si decide di fare un audiolibro per ragazzi, si deve sempre tenere presente che il lettore si connette alla voce che ascolta e quindi si crea un legame. Quindi non basta semplicemente leggere quello che si è scritto per creare un ottimo audiolibro, ma bisogna tenere a mente alcuni punti. Per esempio, le emozioni narrate dalla voce non devono essere quelle di quel momento. Per esempio, io sono arrabbiato, allora la mia voce è arrabbiata. Ma in teoria, per dare una resa migliore, si dovrebbe un po' interpretare quelle che sono le emozioni del personaggio, quando possibile, ovviamente senza enfatizzarle troppo. Ci sono anche alcuni autori che raccontano qualcosa di sé quando scrivono l'audiolibro. Il lettore vuole ascoltare la storia di cui ha letto la trama su Amazon, non vuole sapere la biografia dell'autore. In compenso può essere utile ritagliarsi degli spazi per fare conoscenza. Gli spazi per fare conoscenza sono molto interessanti perché appunto creano questo legame. Per esempio si potrebbe utilizzare lo spazio della prefazione o della postfazione per raccontare un po' di sé e quindi creare questo ambiente favorevole per il lettore. Naturalmente più la voce è sgraziata, gracchiante, pesante e meno una persona ha voglia di ascoltarti. Accade anche nei videogiochi, cioè rumori forti, sottofondi, difetti di pronuncia, dialetti. È anche vero che un lettore che sa che è l'autore stesso a raccontare la sua storia può avere un po' più di pazienza, ma è anche vero, sempre tornando a Cicerone, che non bisogna abusare della pazienza dei lettori. Se hai già scritto il tuo libro e vorresti passarlo in audiolibro, potrebbe essere necessario un editing sulla caratterizzazione dei personaggi. Se l'audiolibro è interpretato dal proprio autore, questi non potrà fare le diverse voci dei personaggi del testo, che ovviamente sono più di uno. Però può far capire al lettore quando si sta passando da un personaggio all'altro, non solo ripetendo lo scritto, quindi con per esempio rispose Tizio o domandò Caio, ma anche basando sulla caratterizzazione dei personaggi, in modo che il lettore, anche se distratto, possa capire subito di chi sta parlando e di cosa. Continuo a parlare di lettore quando si parla di ascoltatore, più che altro, perché si tratta sempre di persone che comunque amano la lettura e che quindi hanno già un'esperienza di lettura in cartaceo o in ebook e poi sono passati ad audiolibro perché magari hanno poco tempo o semplicemente perché adorano ascoltare. La caratterizzazione del personaggio di un audiolibro è fondamentale perché il personaggio prende vita. Lo si vede anche nei cartoni animati o nei film. Quando un personaggio ha un doppiatore e questo doppiatore cambia, l'ascoltatore o il telespettatore si sente spiazzato, dice sempre lui. Quindi la caratterizzazione sbagliata a monte, cioè già nel romanzo scritto, crea un po' di problemi e quindi genera una falsa partenza che poi è difficile da superare. Creare un audiolibro ha anche le sue buone opportunità di marketing, nel senso che, come tutti sappiamo, promuovere un libro è fondamentale poi per avere un riscontro non soltanto di vendite ma anche di lettori. Per motivi di comodità utilizzeremo l'idea di un autore esordiente che abbia deciso di utilizzare solo Amazon. Perché? Perché Amazon offre degli strumenti di promozione quando si cede l'esclusività, quindi questi strumenti hanno un prezzo comunque, anche se non in denaro, degli strumenti di promozione che permettono sia di promuovere l'audiolibro in sé, sia di promuovere eventuali formati precedenti che possono essere il cartaceo o l'ebook. È anche vero che l'autore può scegliere di fare prima l'audiolibro e poi l'ebook e il cartaceo o viceversa, soprattutto per quanto riguarda il self-publishing. Allora, come utilizzare l'audiolibro per promuovere un testo? Prima di tutto, Amazon offre la possibilità di inserirsi nei circuiti Audible e Prime Reading per quanto riguarda l'audiolibro, mentre per il formato digitale ebook Mubi si hanno a disposizione sia sempre Prime Reading sia Kindle Unlimited. Basti pensare alla recente innovazione di Amazon che consente di mettere dell'advertising, cioè della pubblicità, all'interno di Amazon stesso. Allora, l'obiettivo di questo autore è di promuovere tutti e tre i formati, quindi cartaceo, l'ebook e l'audiolibro, sfruttando l'audiolibro. La prima cosa da fare è naturalmente informare i potenziali influencer o comunque ebook blogger. Se il lavoro è già a disposizione su Amazon, la cosa importante è anche informare il blogger, perché spesso i blogger ci sono già nei circuiti Kindle Unlimited o almeno nel circuito Prime Reading. Per i blogger, quindi, potrebbe essere anche interessante mandare il primo capitolo del testo o i primi 2-3 capitoli del testo o un estratto non solo nel classico formato PDF ma anche nel formato MP3, per far sì che il blogger si renda subito conto di quello che è stato scritto e quindi possa procedere anche più velocemente, dato che spesso sono così invasi da libri che hanno sempre poco tempo. In più, il fatto di avere l'audio del testo consente di creare dei video promozionali che si potranno utilizzare per sponsorizzare il libro su Facebook, su Pinterest e su Instagram. Ora, naturalmente, in questo caso conviene utilizzare Audacity in modo tale da poter dividere le sezioni dell'audiolibro, utili poi per fare i video promozionali. Naturalmente ogni social network ha il suo formato richiesto per il video. Per passare da un formato all'altro, se non si hanno troppe competenze tecniche, magari si potrebbe utilizzare l'app gratuita di Quick GoPro, che si trova sia su Google Play sia sull'Apple Store. In più, l'audiolibro non è un semplice file MP3, ma ha una serie di informazioni. Queste informazioni possono essere utilizzate sotto forma di tag sia sui motori di ricerca generali, che possono essere Google, Bing, eccetera, ma anche su quelli che sono i siti di ricerca di settore, quindi può essere FeedBurner, può essere Spreaker, eccetera. E questo quindi permette anche di promuovere il libro anche da questo punto di vista, per cui se una persona sta cercando un libro fantasy, allora potrebbe essere molto utile avere un podcast dove c'è un estratto del libro e inserire poi tra gli hashtag del podcast libro fantasy. Se poi c'è anche il budget oppure ci sono delle web radio che lo consentono, potrebbe essere interessante creare anche un piccolo spot sfruttando l'audio dell'audiolibro, ovviamente sempre non completo ma sempre ottimizzato attraverso Audacity. Naturalmente ogni volta che il blogger, che la radio, il motore di ricerca parla del libro, automaticamente compaiono anche gli altri formati precedenti, ovvero il cartaceo e l'ebook. Infine, chi è un autore esordiente ma navigato può comunque utilizzare la newsletter dei lettori oppure le piattaforme Patreon o le piattaforme di crowdfunding per promuovere il proprio libro attraverso l'audiolibro. Infatti, con questo sistema si può incuriosire il lettore oppure dare uno strumento per dimostrare il proprio lavoro, per far capire come si scrive a chi eventualmente volesse investire. Naturalmente un audiolibro non si fa da un giorno all'altro e non si scrive come il classico libro cartaceo. Quindi in un prossimo articolo vedremo un momento quali sono i programmi che servono, i microfoni che servono e anche come organizzare i vari capitoli. Ma questo naturalmente sarà oggetto di discussione di un prossimo articolo. Vi ringraziamo per averci ascoltato e vi ricordiamo che la base di sottofondo di oggi è di Jason Shaw, Nice and Easy, che abbiamo trovato su Free Music Archive. Grazie!